La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Nella prima parte del programma vi proponiamo la puntata andata in onda lo scorso 9 marzo 2009. Dino Pesole dedica il suo approfondimento al massacro della foresta di Katyn. L'eccidio avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale e comportò l'esecuzione di massa da parte dell'Unione Sovietica di moltissimi soldati e civili polacchi. Ospite ai nostri microfoni Francesco Cataluccio, esperto di storia e cultura della Polonia e dell'Europa centrale. Nella seconda parte vi proporremo un estratto della conferenza dal titolo Le patrie di Obama, che si è tenuta durante È Storia, il quinto festival internazionale della storia di Gorizia. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Il 17 settembre 1939, in seguito agli accordi inclusi nel patto firmato a Mosca il 23 agosto del 1939 dal ministro degli esteri Molotov e dal suo omologo tedesco von Ribbentrop, l'Armata Rossa attraversa il confine orientale polacco. In meno di un mese tutte le province orientali polacche vengono occupate e quasi 180.000 ufficiali, 230.000 soldati e circa 12.000 agenti di polizia vengono fatti prigionieri. Tra i prigionieri di guerra vi sono ufficiali di ogni grado e una dozzina di generali. Il 5 marzo 1940 il Politburo del Partito Comunista Sovietico decide di fucilare 15.000 prigionieri reclusi in vari accampamenti. È Stalin in persona a firmare l'ordine. I prigionieri polacchi vengono eliminati con un colpo alla nuca nella primavera del 1940 nelle foreste di Katyn, Tver e Kharkov e sepolti nelle fosse comuni. E l'armata tedesca avanzando verso est a scoprire le fosse di Katyn. Ora la spietata esecuzione degli ufficiali e dei soldati polacchi torna alla luce grazie al bel film di Andrzej Wajda Katyn. Il regista, che a Katyn perse il padre, racconta la vicenda attraverso la storia di Anna, la moglie di un capitano di cavalleria, che pur non volendo accettarle si troverà di fronte alle prove dell'esecuzione del marito, così come accadrà ad altre donne. Ecco, ascoltiamo un brano tratto dal film. Da questa parte ci sono i tedeschi! I russi, di qua ci sono i russi! Fermi, dove andate? Tornate indietro! Di qua ci sono i russi! Anna! Mi riconosce, Anna? Dove sta andando? A cercare mio marito, dove sono? Ma non lo sa, l'esercito sovietico ci ha attaccati stamani all'alba. Mio marito mi ha ordinato di tornare subito a Cracovia. Venga con me. La prego, Anna, mio marito sa bene quello che dice. Signora, lui dobbiamo andare. Lui sa che mandandoci lì saremo al sicuro. Non può mettere in pericolo la sua vita e quella di sua figlia. La prego, sia ragionevole! Signora, dobbiamo andare! Il governo sovietico negò le accuse tedesche e sostenne che i polacchi erano stati catturati e giustiziati dalle unità tedesche nell'agosto 1941. La verità sui fatti di Katyn fu tenuta nascosta per molto tempo. Chi sosteneva la verità fu perseguitato e punito. Alle famiglie dei condannati non fu permesso neppure di accendere candele sulle tombe dei loro cari. Soltanto nel 1989 fu fatta luce sulla vicenda. Nel 1990 le autorità sovietiche ammisero per la prima volta che a commettere il crimine era stata la polizia segreta sovietica e due anni dopo il presidente Boris Yeltsin dichiarava ufficialmente che quanto accaduto era stato ordinato da Stalin. Da allora sono molti i dettagli che stanno venendo alla luce, sia sui fatti della primavera del 40 nella foresta di Katyn che sulle stanze della tortura di Tver e di Kharkov. Signori, sicuramente tra un anno accanto ai nostri cari ricorderemo questa brutta situazione ridendoci sopra. Nessuno di noi ha mai pensato che il nostro impegno ci avrebbe portato solo a facili vittorie. Il destino del soldato prevede anche la sconfitta e la prigionia, come il ritorno a casa e poi ancora una nuova battaglia. Le armi non si depongono di fronte al nemico, ma di fronte a se stessi. E dunque solo da voi dipende se essere soldati oppure vinti. Voglio rivolgermi a coloro che non sono militari di professione e che si trovano a condividere il nostro destino. Io vedo qui scienziati, professori, ingegneri, giuristi. Vedo anche pittori. Vi chiedo di resistere. perché senza di voi non ci sarà una Polonia libera. Il nostro compito da soldati è quello di riportare la Polonia sulla mappa dell'Europa. Ma voi, insieme a noi, in Europa, quella Polonia, dovrete ricostruirla. Bóg się rodzi, moc truchleje, a niebiosów obnażony. Abbiamo in linea Francesco Matteo Cataluccio, esperto di storia e cultura della Polonia e dell'Europa centrale. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Prego. Allora, parliamo della strage di Katyn, ovviamente in seguito al film di Wajda, e soprattutto per spiegare a chi ascolta che si tratta di una, diciamo, di un fatto che è stato a lungo poco conosciuto, a lungo, se vogliamo, anche rimosso. E quali sono i motivi, secondo lei, perché non è arrivata poi una corretta informazione su quel che accadde nelle foreste di Katyn a danno degli ufficiali e dei soldati polacchi? Il motivo è che intorno a questa vicenda si giocò una partita molto più grande della strage, che comunque è già un fatto di dimensioni ovviamente enormi. E questa partita fu una partita giocata tra la propaganda dei tedeschi e la propaganda dei sovietici, nel senso che queste fosse furono scoperte dai tedeschi nel 1941, quando appunto invasero i territori appunto che facevano parte della Bielorussia, preparando delle fortificazioni, ma pare anche sapendo dalla popolazione che in quella foresta c'erano stati dei grandi movimenti di treni, di camion, di persone, i tedeschi cominciarono a scavare e trovarono appunto delle fosse piene di cadaveri. Questi cadaveri erano già in avanzato stato di decomposizione ed avevano le divise dell'esercito polacco. E lì appunto venne fuori la notizia e poi venne fuori appunto il fatto che il governo polacco in esilio a Londra chiese spiegazioni a Stalin e ai sovietici. In realtà i polacchi già da tempo stavano cercando questi soldati che mancavano all'appello, cioè perché poi nel momento in cui i tedeschi invasero l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica divenne in quel momento di nuovo alleata dei polacchi. E quindi diciamo, sì, il primo trattato che fu firmato fu quello che tutti i polacchi che si trovavano nel territorio sovietico e che erano stati deportati o fatti prigionieri dovevano essere rilasciati. Che avvenne? Quali furono i motivi che spinsero Stalin a prendere la decisione di far uccidere oltre 15.000 prigionieri? Inizialmente appunto questi furono fatti prigionieri ed erano quasi tutti, la cosa più importante, ufficiali, quindi diciamo sì, erano la crema della Polonia, cioè l'intelligenza, erano avvocati, non erano soldati di carriera, molti di questi erano appunto persone che erano state richiamate nel 1939 e che appunto in base al patto Ribbentrop-Molotov si ritrovarono nemici dell'Unione Sovietica e poi appunto furono fatti prigionieri. E chiaramente Stalin li fece fuori perché in questa maniera qui già si prefigurava il futuro della Polonia, cioè facendo fuori le forze migliori di questo paese si poteva poi pensare che nel 1945, quando poi la Polonia fu annessa all'area dei paesi cosiddetti socialisti, il fatto che questa gente qua non ci fosse rendeva la Polonia sicuramente più debole. Il problema interessante è che però i russi subito dissero che non era vero, che queste persone erano state in realtà ammazzate dai tedeschi e questa era una provocazione per dividere il campo alleato. E qui si giocò una grossa battaglia di propaganda e anche relativa alla datazione di questi cadaveri, perché appunto i russi sostenevano che questi cadaveri erano dei soldati fatti ammazzare appunto dai tedeschi. E i tedeschi crearono una commissione internazionale della Croce Rossa, fu invitata questa commissione a lavorare appunto in queste fosse. Di questa commissione faceva parte tra l'altro un italiano di Napoli che si chiamava Palmieri, uno specialista appunto in patologia, e lui andò lì insieme a questa commissione, fece dei rilievi e sostenne appunto che questi cadaveri erano già in avanzato stato di decomposizione e quindi non potevano essere stati ammazzati dai tedeschi, ma erano stati ammazzati quando quel territorio era in mano ai russi. Già, perché fu solo nel 1990 che alla fine le autorità sovietiche ammisero per la prima volta che a commettere il crimine era stata la polizia segreta sovietica. Sì, Gorbaciov consegnò al generale Jaruzelski, che nel frattempo è diventato presidente della Polonia, gli consegnò dei faldoni con documenti, e appunto questi documenti, che contenevano tutti i nomi di questi prigionieri, contenevano anche appunto una lettera firmata di pugno da Stalin in cui si diceva appunto che questa gente doveva essere eliminata. Però ecco, per tutti questi anni questo tema fu tabù. In Polonia i familiari di queste persone, che furono date per scomparse, non potevano assolutamente parlare di questa questione. Chi ne parlava veniva appunto accusato di propaganda antisovietica, e anche all'estero comunque su Katyn si giocò una battaglia molto forte, perché bisogna ricordare che al processo di Norimberga gli inglesi soprattutto tentarono di mettere all'interno del processo di Norimberga anche questo crimine, nel senso che gli inglesi, volendo dare ragione ai russi, tentarono di portare questo crimine come un crimine ascrivibile ai nazisti, e lì invece gli americani si rifiutarono, e infatti poi appunto su questa cosa ci fu un braccio di ferro, e il crimine appunto di Katyn comunque non rientrò nella lunghissima lista di delitti ascrivibili ai nazisti. La storia e la memoria. Ben ritrovati alla Storia e la Memoria. Ora vi proponiamo un estratto della conferenza dal titolo Le patrie di Obama, che si è tenuta durante il Festival di Gorizia, è storia. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Classe 1961. Padre Kenyota e madre del Kansas, nato alle Hawaii e cresciuto in Indonesia, Barack Hussein Obama è considerato l'uomo simbolo del multiculturalismo e del melting pot americano. Incarna una storia complessa e contraddittoria, che vede la fusione tra diversità e uguaglianza nella vita civile degli Stati Uniti d'America. Mario Calabresi, direttore della Stampa, che ha seguito da vicino la campagna presidenziale e l'elezione di Obama, traccia il profilo del 44esimo presidente degli Stati Uniti, il primo nero alla Casa Bianca. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. Io l'ho seguito per un pochino più di 2 anni. Quasi sempre, in tutti i suoi spostamenti americani, anche nei suoi viaggi, quando i suoi 2 viaggi europei, quello durante la campagna elettorale. Come persona è una persona molto metodica, molto concentrata sui suoi obiettivi. Quella naturalezza che appare, quel suo calore, esiste, ma non è uno... è uno sempre molto concentrato su quello che vuole, molto organizzato. È una persona che ha degli orari ferrei in cui si alza, in cui va a dormire, sta molto attento a come mangia verdure e pesce, non mangia porcherie, non beve, fa sport tutte le mattine. Non lo so, perché uno forse vedendolo da fuori si immagina uno un po' più così innovatore, così giovane, se lo immagina un po' più sregolato. Invece la cosa che a me ha colpito osservandolo da vicino è come è uno determinato e non ha mai nascosto le sue ambizioni. In questo è molto americano, è molto figlio di Chicago. Lui ha una vita molto complessa, soprattutto per essere un americano, perché gli americani, la gran parte degli americani, non ricordo la cifra precisa, ma forse solo il 20% degli americani ha il passaporto. Lui invece, se pensate che George Bush, prima di essere eletto, praticamente non era stato in nessun luogo fuori dagli Stati Uniti che non fosse il Messico o il Canada, invece Obama è uno appunto nato alle Hawaii, cresciuto in Indonesia con un padre africano, ha una storia tutta diversa. Però poi la città che lo forma è Chicago. E Chicago è una città, diciamo, di gente ambiziosa. È una città ambiziosa, è il luogo, è proprio il luogo in cui il capitalismo americano si vede con più chiarezza, perché è la città che ha inventato tutti gli standard di quello che oggi si mangia, cioè la bistecca di un certo peso tagliata in un certo modo, il succo d'arancia, il bacon, la colazione americana, il modo di mangiare americano, tutto il mercato che si fa su ogni giorno sul grano, sulla soia, tutto quello che è cibo americano, gli standard del cibo americano sono stati creati a Chicago, ed è una città che guarda molto al futuro, una città aggressiva, e in questo Obama è figlio di Chicago, cioè è un uomo molto ambizioso, molto determinato, che ha avuto però la capacità di mettere insieme questa determinazione e dargli però dei contenuti, mixare, diciamo così, diciamo una parola italiana, mescolare delle idealità forti con dei metodi e un'organizzazione molto ferrea. E questa è una cosa, facciamo l'esempio politico italiano. Noi siamo abituati, per esempio, a ragionare, anche negli Stati Uniti prima di Obama, che diciamo i democratici o la sinistra è idealista, meno pragmatica, si occupa di grandi idee, ma magari meno di problemi pratici, e ha più cuore ma meno capacità organizzative. I repubblicani o i conservatori o la destra sono invece più pragmatici, più determinati, meno idealisti, però per esempio più pragmatici e pratici. Obama ha rotto completamente queste categorie. È il presidente più giovane da Kennedy a oggi ed è uno che ha rotto completamente, diciamo, gli schemi ideologici di destra e sinistra che c'erano nel Novecento. Cosa significa? Che lui ha rimesso in discussione tutto il modo di discutere, di pensare che c'era negli Stati Uniti. Per cui, non lo so, il tema della sicurezza, lui dice la sicurezza dei cittadini è un valore, i cittadini vanno difesi, non mi interessa se è di destra o di sinistra. Però contemporaneamente ha portato avanti il discorso dei diritti, ha portato avanti il discorso delle minoranze, ma mai in modo ideologico, in modo molto pragmatico. Quello che ha colpito gli americani è che lui era fuori dagli schemi tradizionali. Perché ha vinto le elezioni? Non perché lui era una cosa strana e completamente nuova, ma perché la sua novità era figlia del bisogno di cambiare che c'era negli Stati Uniti, che cresceva. L'America sentiva la crisi economica, che poi l'ha investita in pieno in campagna elettorale, non era sfinita di vivere un modello di sviluppo a cui non riusciva a star dietro. Voi pensate che io ho incontrato tante persone nei miei viaggi negli Stati Uniti con 10 o 12 carte di credito nel portafoglio e che vivevano sempre al di sopra delle loro possibilità e spostavano i debiti da una carta di credito all'altra. Un modo di vivere che non era più sopportabile, un modo di vivere che quello di comprare le case, si potevano comprare le case senza dover dare la caparra e ti davano dei mutui che non solo coprivano il 100% del valore della casa, ma ti davano un mutuo che era del 105%. Se tu compravi una casa da $100,000, la banca ti dava $105,000, ti dava anche i soldi per pagare il notaio, beh, in America non c'è il notaio, lo fa un avvocato, l'avvocato, le spese di accensione del mutuo, ti davano persino i soldi per i mobili e per il trasloco. Ti prendevi la casa, non avevi bisogno neanche di avere un dollaro di deposito. Questo chiaramente ha creato un'irresponsabilità totale. La gente comprava le case senza avere i soldi per comprarsele, sicura che i prezzi sarebbero saliti e poi saliti ancora, per cui tu la compravi e poi magari la rivendevi dopo un anno, avevi guadagnato un po' di soldi, semplicemente restituivi i soldi alla banca e ti rimaneva in tasca qualcosa. Quindi il meccanismo, ho usato solo uno degli esempi possibili, era un meccanismo che non stava più in piedi. C'erano e ci sono due guerre in Iraq e in Afghanistan in cui l'America era coinvolta, c'è questa paura e lotta al terrorismo che però aveva e ha preso negli Stati Uniti, all'interno degli Stati Uniti, dei caratteri in cui si sono persi di vista i diritti dei cittadini, ma qui parlo per esempio dei diritti spicci. Basta passare in un aeroporto americano per rendersene conto. È diventato la regola per fare i controlli antiterrorismo, è diventata così primaria, è diventata così importante, che sta sopra tutto, sopra i bisogni dei cittadini, che non c'è più nessuna elasticità e la gente era sfinita, stanca di questo. Io ho sentito tanti repubblicani che avevano votato Bush che non ne potevano più. Ho visto con i miei occhi in un piccolo aeroporto di provincia una signora di 80 anni passare al metal detector una volta e gli hanno detto: ha tolto tutte le cose di metallo che possono suonare? E lei ha detto sì, passa sotto il metal detector, suona, e allora lei dice: ah no, i bracciali, e torna indietro, e quello dice: glielo ripeto per la seconda volta, ha tolto tutte le cose, no, avevo i bracciali, e mette i bracciali nel nastro che controlla tutto, e allora ripassa e risuona di nuovo, e lei dice: oh, gli orecchini. Era una signora molto anziana, anche affaticata, e quindi faceva fatica. Passa la seconda volta, suona, si rende conto degli orecchini e torna indietro. Il funzionario della sicurezza gli chiede: lei ha ancora una possibilità la terza volta? È sicura che non ha più niente? Lei naturalmente era andata in ansia, in confusione, eccetera, eccetera, e dice: no, no, non ho più niente. Passa, suona, aveva la cintura, e fa: la cinturina. Niente, lei adesso deve fare l'ispezione, l'hanno portata in una stanza, l'hanno fatta spogliare. Ecco, gli americani erano sfiniti di questo modo di vivere, degli ipercontrolli, del fatto che si era persa qualunque elasticità, del fatto che si vivesse con un modello che non funzionava. E quindi, come hanno fatto tante volte nella loro storia, hanno deciso che avevano bisogno di un cambio radicale. Per me tutto è stato chiaro. In un volo aereo che ho fatto da Boston a New York durante la campagna elettorale, vicino avevo un'altra persona di più di 80 anni, un nonno che andava a trovare i nipoti a New York. Questo signore mi ha chiesto cosa facevo, gli ho detto: sono un giornalista italiano, sto seguendo la campagna elettorale. E poi allora io ho chiesto, mi ha detto chi le piace, io ho detto: beh, devo dire la verità che Obama non mi dispiace. E lui mi ha detto: io sono repubblicano, ho votato per George Bush e ho votato tutta la vita repubblicano. E ho detto: ah, e per cosa voterà? E lui mi ha detto: io sono stato, sono e sarò fino all'ultimo giorno repubblicano, e il mio campione è il Ronald Reagan. E allora io gli ho detto: allora voterà per McCain? E lui mi ha detto: no, voterò per Barack Obama. Anzi, ha detto: voterò per quel ragazzo. E io gli ho detto: perché? E questo vi dà un'idea dell'elasticità e della capacità, della velocità di cambiamento degli americani. E lui mi ha detto: perché io ho 84 anni. E ha detto: perché io non voto più per me, io voto per i miei nipoti. E allora io ho pensato: di che cosa hanno bisogno i miei nipoti? Se io dovessi votare per me, voterei per John McCain, che avrà 70 e rotti anni, ma in confronto a me è un ragazzo, mi ha detto. Però, e John McCain mi somiglia, è repubblicano, è un eroe del Vietnam, mi piace. Però, lui ne parlava come fosse un amico suo, ma non lo conosceva. Dice: però John non è la persona giusta per mettere a posto il paese. E allora io ho pensato ai miei nipoti. E ho pensato: di cosa hanno bisogno i miei nipoti? Hanno bisogno di uno giovane che gli rimetta in piedi l'America, che cambi questo paese che non funziona più. E allora voterò per quel ragazzo. Io sono rimasto senza parole, perché in Italia facciamo fatica a fare degli scarti così dopo una vita. E l'America invece, Obama è nuovo, ma è figlio della capacità dell'America nei momenti di grande difficoltà di scommettere sul nuovo, di cambiare radicalmente. E ogni volta che l'America si è trovata a un bivio l'ha fatto nel Novecento con eleggendo Roosevelt durante la Grande Depressione, lo ha fatto eleggendo Reagan, che aveva anche la colpa di essere cattolico e nessun presidente americano era stato cattolico prima di lui, l'ha fatto dopo Carter eleggendo Ronald Reagan, che era un ex attore di film di serie B, che però era portatore di energia nuova. E questa volta l'ha fatto con Obama, questa capacità. Quindi Obama è sì una persona nuova, fuori dagli schemi, ma è profondamente americano ed è il segno, il simbolo della voglia di cambiare che avevano gli Stati Uniti. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes We Can è il motto di Obama e dell'America del futuro, di quell'America che con il suo giovane presidente vuole cambiare la storia del proprio paese. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Buonanotte. Oh, oh, oh. Yes, we can.